Baldone, un programma in italiano non solo per italiani, in onda tutti i venerdì su Radio Contrabanda a Barcellona. Buon pomeriggio a tutti e ben ritrovati qui su Radio Contrabanda per una nuova puntata di Zibaldone, un'ora accompagnati dalla musica, varie news musicali come quella che già state sentendo ora e un intervistato di lusso che ci parlerà del suo nuovo libro. Questa fame d'aria è tutto quello che mi resta di te. Mi sei scivolata via come vento tra le mani in un giorno stupido. E i tuoi occhi verde trincea non si chiudono mai, non si chiudono mai, non si chiudono. Chiudono. Sei tu che mi hai insegnato a non godere per primo. Sei tu che mi hai toccato dove neanche io mi conoscevo. Sei tu che mi hai lasciato stremato e senza respiro. Sei tu un improvviso che non mi aspettavo. Sei tu un improvviso che non mi aspettavo. Che crolli adesso il tuo sorriso sulle dannate paure che mi hanno inchiodato, che brucino adesso pure, fidati di me, fidati di me. Silenzio affilato è tutto quello che adesso mi parla di te. Mi sei scivolata via come aria tra le mani in questo giorno stupido. I tuoi occhi trincea non si spengono mai, non si spengono mai, non si spengono. Non si spengono mai, non si chiudono. Sei tu che mi hai insegnato a non godere per primo. Sei tu che mi hai toccato dentro dove neanche io mi conoscevo. Sei tu che mi hai ridato la voglia, la gioia col tuo respiro. Sei tu un improvviso che non mi aspettavo. Sei tu un improvviso che non. E si porti via le dannate paure che ci hanno inchiodato, che brucino adesso, più semplicemente, fidati di me, fidati di me, fidati di me, fidati di me. E finisce così, molto intimamente, molto dolcemente, questa Fidati di me, il nuovo brano di Holden, che è stato spesso nostro ospite. Do subito il benvenuto all'ergonomico più che mai, Enrico Banzola, conosciuto ormai da tutti gli ascoltatori di Zibaldone come il Banzo. Banzo, buon pomeriggio. Buon pomeriggio Steven, buon pomeriggio a tutti. In realtà conosciuto come Banzo anche da molta gente in Romagna e Barcellona che non ascolta il programma, e vabbè, è quello che si dice, un soprannome abbastanza efficace, ma non siamo ovviamente qui per parlare di questo. Parliamo invece della nuova uscita, del nuovo brano di Holden che anticipa il suo disco con cui abbiamo aperto la puntata di quest'oggi. Assolutamente, volevo parlare proprio di lui, anche se è bello come gli inizi della puntata hanno sempre quell'elemento di imprevedibilità. Questo singolo, tu hai già detto il titolo, Steven, si chiama Fidati di me, è uscito il 19 aprile, quindi meno di un mese fa, ve lo proponiamo adesso, e anticipa il nuovo album di Holden che avrà per titolo La fretta e la pazienza e ha come uscita prevista il prossimo mese di ottobre. Ecco, su questo disco si potrebbe dire, io ho avuto modo di ascoltare alcune demo, non dirò molto sulla direzione musicale, questo brano già dice qualcosa, però è interessante specificare un dettaglio sulla genesi del disco, cioè il fatto che questo album è il risultato di un crowdfunding sostanzialmente attraverso la piattaforma Produzioni dal Basso, quindi proprio letteralmente una produzione dal basso che Holden ha portato avanti attraverso i suoi social, e questo è il primo risultato che ne possiamo sentire. Ovviamente ne parleremo con lui più estesamente quando uscirà il disco intero. Eh sì, ne riparleremo ad ottobre. Noi prima però di andare a scoprire l'ospite di questa puntata che vi aggiungiamo già, è Daniele Comberiati che ci presenta la sua nuova raccolta di racconti, Il diario delle mie sparizioni, e anzi Banzo, a questo punto possiamo anche svelare il titolo della puntata dello Zibaldone di questo 10 maggio. Che in realtà è, cari tutti, distopia del terzo millennio. Eh sì, quindi insomma parliamo di cose in realtà molto più vicine di quello che vi possiate immaginare a partire dalla letteratura insieme a Daniele Comberiati. Però prima di Daniele Comberiati andiamo ad ascoltarci un'altra news italiana di un artista molto amato, molto conosciuto, parliamo di Io sono un cane. Anche qui si tratta di un singolo, Steven, che è uscito da poco perché la data di uscita è il 23 aprile. Il brano si chiama Viudas, cioè che sarebbe vedovo in spagnolo, ma segue un po' l'ispirazione, il criterio dell'album Ira, quindi i brani sono cantati in lingue, cioè a volte i titoli sono in lingue realmente esistenti, sono parole esistenti, però i testi alla fine sono appunto approssimazioni linguistiche, diciamo. E infatti la continuità stilistica con Ira è abbastanza forte, e su questo brano però va sottolineato anche che apparirà nella colonna sonora, anzi è apparso nella colonna sonora di una serie Netflix il 2020, quanti ricordi? Briganti è il nome della serie, e questa canzone appare nel terzo episodio e apparirà in questa serie anche Ojos, un brano che è estratto proprio da Ira, a ribadire la continuità di questo periodo compositivo dell'autore. E allora ce l'andiamo ad ascoltare, lui è Io sono un cane, non ha bisogno di presentazioni, questa è Viudas, e dopo in collegamento telefonico con noi ci sarà Daniele Comberiati per parlarci del suo diario delle mie sparizioni, o meglio dire del diario delle sue sparizioni, insomma ce lo racconterà lui tra poco. Godetevi questo brano di Io sono un cane, Viudas. Salia dal glacial nail, sal mentre ne ducei, Viudas in pardon, in pain, bene figli in corso in shame, frio sangue nel catei, frio il belso nel da sulveis bene figli in corso in shame ras le voix couches in shape ras le chams qui la l'el shame, blind the sad light it fades. Collegamento telefonico con noi c'è oggi Daniele Comberiati, che è l'ospite di questa puntata di Zibaldone. A Daniele do subito il benvenuto, ma prima però lo presento come il fo ai nostri ascoltatori. Lui insegna letteratura e cultura italiane all'Università di Montpellier, nel sud della Francia, ha scritto tantissimi libri, pubblicazioni accademiche, ma anche alcuni romanzi. È stato nostro ospite in varie occasioni per parlare delle une e degli altri. Il suo precedente romanzo del 2018 è Colpo di Stato nella San Marino Rossa, e ce l'aveva presentato proprio qui a Zibaldone, e da pochi mesi è uscito, all'inizio di questo 2024, un suo nuovo libro. In questo caso non è un romanzo, ma è una raccolta di racconti intitolato Il diario delle mie sparizioni, pubblicato per i tipi della Mesa Mucci. Daniele, innanzitutto ben tornato a Zibaldone, è un piacere averti ancora con noi. E grazie anche a chi ci ascolta, e grazie Steven per l'invito, mi fa sempre piacere venire da voi. No, è un piacere nostro, perché ci parli sempre di cose bellissime, dalla fantascienza alla letteratura migrante. Insomma, quest'oggi ci parli invece di una creazione letteraria, ecco, non di studi letterari, però ovviamente c'è dietro anche tanto lavoro che ha a che fare con la tua ricerca, con gli anni di insegnamento, soprattutto a Montpellier. Ecco, Il diario delle mie sparizioni, lo dico subito ai nostri ascoltatori, la copertina è un disegno di un negozio di Blockbuster. Ecco, insomma, cominciamo da qui magari? Sì, guarda, volentieri, riprende un po' anche l'argomento del secondo racconto, no? 1993, questa sorta di milionario, ecco, che invece di costruire una città nello spazio costruisce una città nel tempo, appunto, nel 1993. E l'idea è proprio di ragionare su Blockbuster, no? Perché Blockbuster ad un certo punto ha invaso, ha proprio colonizzato, no? Gli spazi delle città, ma anche della provincia italiana. Io mi ricordo che anche nelle province era pieno di Blockbuster, per poi sparire, perché poi è fallita l'impresa, no? Quindi c'era anche questo colore giallo e blu, che poi è stato sostituito dal giallo e blu di Ikea, no? Che è stata un'altra colonizzazione leggermente più tarda, no? Fino agli anni 90 e anni 2000. E insomma, giocava anche un po' su questo la copertina. E a me colpiva perché, sai, all'epoca magari ero, non so, adolescente, così ci andavamo con qualche amico a affittare le videocassette e poi DVD, e era un po' l'unico luogo, no, in cui, che ne so, c'erano certe marche di prodotti americani che magari non si trovavano all'estero e non si trovavano altrove. Quindi era veramente un po' una sorta di, cioè, veramente di spazio, tipo un aeroporto, no? Mi ricordava tantissimo l'aeroporto, anche come odore, cioè una sorta di non luogo all'interno delle nostre città, dei nostri paesi, insomma. E poi è sparito, cioè, mi ricordo nel mio quartiere c'era questo Blockbuster, poi abbandonato, no? Rimaneva sempre questa scritta gialla e blu e basta. Ascolta, questo in realtà ha a che fare con uno dei cinque racconti di questo libro, no? Intitolato Il diario delle mie sparizioni, sì. Che è anche il titolo di uno dei racconti. Sono dei racconti, ovviamente, delle storie diverse, con dei protagonisti a cui succedono cose diverse, ma c'è un filo conduttore che in realtà non so se lo possiamo mettere al di sotto del genere della fantascienza, in qualche modo, delle diacronie, delle ucronie. Ecco, magari partiamo un po' da qui e spiegaci un po' qual è un pochino il fil rouge di questi diversi racconti. Sì, effettivamente è vero, se uno poi intende, come dire, la fantascienza in senso largo, ci stanno dentro i racconti, il fantastico sicuramente anche. L'idea che ho avuto in ogni racconto più o meno è di creare situazioni in realtà poi fantastiche, ma anche molto molto verosimili, no? Cioè alla fin fine, ecco, appunto, questo racconto di cui parlavamo, sì, non è scontato, no, che un milionario ricostruisca un anno con tutti i negozi, le vie, come il 1993, però a priori non è neanche impossibile, no? Abbiamo visto di peggio. Abbiamo visto di peggio, esatto. Infatti mi sono ispirato anche a alcune sai, costruzioni di quartieri, magari negli Emirati Arabi o in Qatar, no? Perché ero andato a una conferenza sull'ecologia e una persona parlava di utopie ecologiche in questi luoghi. Siccome ero tornato a casa terrorizzato, mi è venuta questa idea, ecco, insomma, per questo. E anche altri, diciamo, sono racconti non realistici, però neanche così reali, no? In una sorta di veramente limbo sottile, no? Frontiera sottile tra quello che esiste e quello che non esiste, ma potrebbe esistere. Appunto, il titolo è uno dei racconti, Il diario delle mie sparizioni, in cui il protagonista praticamente vive alla fine un giorno sì e uno no, l'altro sparisce e insomma alla fine si adatta, no, nel corso della sua vita per cercare di ricostruire questi giorni scomparsi. Sì, guarda, quello è forse il più inverosimile, no? Chiaramente, però viene da un'esperienza reale, cioè nel senso che io ho lavorato quasi 2 anni al sindacato scrittori che fa parte della CGIL, all'epoca aveva anche incorporato il sindacato traduttori, che ora si è staccato a Roma, insomma, ormai diversi anni fa, e mi colpiva perché, vabbè, non so se si può dire, però ho lavorato anche da precario, ho lavorato anche, insomma, non sempre con contratti proprio ad hoc, e il lavoro comunque di traduttore e il lavoro da scrittore erano invisibili effettivamente da un punto di vista dei diritti, da un punto di vista degli stipendi. Poi magari ci sono altri paesi, no, che hanno creato, sai, in Francia ci sono gli intermittenti di spettacolo, per esempio, almeno per gli attori, no, per chi fa circo, però per le figure, ecco, di traduttori era un po' più complicato, quindi mi è venuto in mente, insomma, vedendo la loro situazione economica e anche giuridica dell'epoca, ti parlo di, insomma, dei primi anni 2000, sì, no? 2006-2007, insomma, in quel periodo. Sì. Ascolta, e un altro invece racconto invece guarda più che al passato, e dopo magari che ci torneremo, proprio al 1993 di cui ci parlavi poc'anzi, e guarda al futuro, a un futuro davvero distopico, no? 65 anni in questo racconto è un'età in cui, diciamo, non inizia la pensione e magari per, insomma, una vecchiaia ancora giovanile come quella al giorno d'oggi, invece, insomma, finisce tutto. Sì, anche lì, no, sai, in Francia l'anno scorso ci sono state tante proteste, no, per la riforma delle pensioni, che poi è stata raccontata pure molto male, no, sia in Francia che all'estero, perché si parlava solo dei 64 anni, quindi di aumentare di 2, ma in realtà gli anni sono solo 2, però gli anni di contributi che si chiedevano erano molti di più, cioè, quindi era quello veramente il nocciolo della questione, non i 64 anni. Ma insomma, a parte questo discorso, lì chiaramente mi è venuta un'idea, perché poi tutti i politici la giustificavano semplicemente, no, con l'allungamento della vita e della qualità della vita, e quindi non possiamo più permetterci 30 anni o 25 o 20 di pensione in una società che invecchia sempre di più. E avevo letto che è vero che alcune persone in Giappone si erano suicidate per aiutare lo stato sociale, e mi sono detto, beh, se fosse semplicemente imposto. Ho giocato anche un po', insomma, sul politicamente corretto, no? Questa è una società teoricamente molto inclusiva, dove tutti quasi sembrano contenti di morire, no? Perché mettono da parte l'individualismo per creare una società più giusta, con i diritti per tutti. Però poi, se la vedi da un'altra parte, da un'altra prospettiva, quelli sono omicidi, insomma, né più né meno. Certo, e infatti, no, a proposito del caso giapponese, appare, no, nel romanzo i Tokyo Kamikaze, li chiami tu, no? Sì, queste sì, persone che appunto si immolano per il bene della società e l'equilibrio. Tra l'altro, ecco, insomma, in questo futuro distopico siamo già alla metà di questo secolo, no? Che tu immagini, e poi, senza fare comunque troppo spoiler, perché invitiamo sempre i nostri ascoltatori a leggersi il libro, questo diario delle mie sparizioni di Daniele Comberiati, questa serie di racconti. Ecco, ma diciamo, tu parli, dici, insomma, finito il comunismo, e questo è davvero successo, insomma, 1991, se vogliamo metterci una data, e poi 2035, sì, se non erro, finisce anche il capitalismo. Ecco, siamo in un'epoca non solo post-comunista, ma anche post-capitalista, dove in realtà la società è, insomma, controllata da una logica quasi da Kundalini yoga, di un equilibrio in cui, appunto, insomma, la gente deve abbandonare questo mondo all'età di 65 anni, e lo deve fare anche contenta. Finisce il capitalismo, in realtà poi è una presa in giro, perché è un mondo molto molto controllato anche dalla polizia, esatto. Ipercapitalista, però ho giocato magari con, infatti lo dice a un certo punto il personaggio, con magari sai, i peggiori aspetti dell'uno e dell'altro, no? Infatti non so se si è notato, ma c'è una polizia segreta il cui nome è il Sigurimi, no? Che era la polizia segreta albanese, così, non c'entra niente ovviamente in quel paese, però mi piaceva ricordare un nome, insomma, una polizia segreta non magari conosciutissima come il KGB o altre, o la Stasi, no? Che però insomma all'epoca aveva un meccanismo di controllo che era efficace in Albania, e lì è un po' la stessa cosa, ma in un sistema teoricamente inclusivo in cui tutti sono felici e contenti, no? Poi insomma, se gratti neanche troppo, vedi che insomma questa contentezza non c'è, perché poi anche le famiglie sono quasi tutte mononucleari, no? Tutti i ragazzini abbastanza angosciati davanti allo schermo, insomma. C'è molta realtà in realtà in questo tuo racconto. C'è molta realtà, esatto. Sì. Ascolta, un altro racconto invece, anche questo è diciamo una distopia del futuro, che parla invece di una Barcellona, insomma non si capisce bene quando e come, però insomma che tra inflazione, crisi economica, cambio climatico, insomma ha trovato quasi per caso un elemento, un ingrediente, un alimento che gli permette di insomma alimentare, scusa la ripetizione, i propri cittadini e di sopravvivere alle crisi economiche cicliche, però insomma anche lì succedono delle cose un po' strane. Sì, questo era un progetto che è nato, un racconto che è nato diciamo in due lingue, in italiano e catalano contemporaneamente, per un progetto di un editore qui, Sfabula, che voleva fare una sorta di Barcellona sotterranea, quindi riprendere alcuni luoghi abbandonati, no, della Barcellona sotterranea, e c'erano queste linee di metro, poi in realtà quella di cui parlo, di Ospitalet, non era sotterranea, ma le altre quattro sì, insomma, quindi creava una sorta, se vuoi, di linea alternativa, no? Siccome ho vissuto tanti anni in Belgio e avevo studiato un po' gli italiani nelle miniere, come vivevano, tutto il resto, mi aveva sempre colpito l'uso dei cavalli che facevano nelle miniere, perché i cavalli erano troppo grandi per farli entrare nelle miniere, quindi li mettevano da piccolini per trasportare il carbone, però chiaramente questi cavalli vivevano al buio, nel sottosuolo, quindi a parte diventavano deformi perché avevano questo carbone che praticamente gli distruggeva la schiena, e poi mezzi ciechi, quindi erano veramente insomma un po' rispetto all'idea che abbiamo di un cavallo, no? Un animale piuttosto bello, agile, potente, insomma erano i cugini brutti, diciamo, dei cavalli che conoscevamo noi. E niente, mi è molto interessato il rapporto con gli animali nelle miniere, perché poi i minatori si portavano sempre questo canarino, no? Perché i canarini sentono prima il gas, il grisù, quindi quando moriva il canarino loro risalivano subito. Quindi mi è venuta questa idea, e un po', se vuoi, questo alimento, questo fungo che trovano nei sotterranei è una sorta di nuovo petrolio, no? Però come succede spesso quando si trovano un nuovo elemento che crea un mercato interessante dal punto di vista economico, la prima cosa che si fa è chiudersi, no? Con il resto del mondo. Infatti c'è una chiusura di Barcellona che diventa un po' più grande poi, ma insomma cerca soprattutto di sopravvivere, no? In un mondo che invece altrove va a scatafascio, no? Infatti dicono crisi economiche, guerre, ma noi avevamo sto fungo e riuscivamo a sopravvivere. Andiamo a fare una piccola pausa musicale con una band che ha cominciato proprio nel 1994, l'anno a cui stiamo dedicando qui a Zibaldone un ciclo, come molti ascoltatori forse sapranno, insomma 30 anni fa, quello che è successo nel 94, e insomma un tuo racconto si intitola 1993, l'abbiamo ricordato poc'anzi. Parlo dei tre allegri ragazzi morti, che anche loro poi in realtà giocano con l'identità, no? E anche un po' con il fantastico, se vogliamo, con il loro look. È uscito da poco questo Mi piace quello che è vero, ce l'andiamo a ascoltare. Loro sono i tre allegri ragazzi morti. Mi piace quello che è vero, mi piace quello che vedo, mi piace quello che è vero, mi piace quello che è vero. Quello che piace alla gente non vale quasi niente. È vero che sarai comunque tu a decidere sempre. allora erano i tre allegri ragazzi morti, Mi piace quello che è vero. Non so se quello che è vero è anche contenuto nel tuo romanzo, Daniele Comberiati, che ci sta accompagnando in questa puntata di Zibaldone per presentarci la sua raccolta di racconti, Il diario delle mie sparizioni. Ascolta, a proposito di anni 90, Daniele, all'inizio ne avevamo parlato, ecco, tu anche, diciamo, ambienti uno di questi racconti in una realtà nel profondo dell'Umbria, dove in realtà, appunto, lo dicevi, un fondatore ricco crea un villaggio, una comunità, dove si è tornati al 1993. Ecco, 1993, perché proprio hai scelto quell'anno? E dove poi, insomma, recuperi anche, no, i film, le canzoni che andavano in onda all'epoca. Ovviamente in questa comunità si paga in lire. Mi piaceva l'idea del 1993 perché era un anno meno di cerniera, no, del 1992, che per l'Italia, sai, c'è stato Tangentopoli, insomma, un po' un anno di passaggio più storicizzato, no? Il 1993 è l'anno accanto, diciamo. Non è ancora il 94, che è un altro momento della storia italiana, perché insomma sono le elezioni in cui Berlusconi vince per la prima volta, quindi veramente si apre una nuova fase, insomma, la Seconda Repubblica e tutto. È veramente l'anno che sta lì in mezzo, che non si sa bene che cosa farci, dove però c'è già un po' tutto. E c'è anche un po' di quello di prima, no? In effetti, perché poi sì, l'abbiamo detto, magari se vogliamo dare una data alla fine del comunismo storico, diciamo, possiamo dare il 91, però poi no, lo sappiamo che culturalmente le cose non sono mai così nette, si trascinano, vengono anticipate, quindi ecco, questo anno mi piaceva perché era un anno meno riconoscibile, eppure molto importante, insomma. È anche vero che era uscito quel film, Il giorno della marmotta, è stato tradotto in italiano, no? In cui c'è una sorta di loop temporale che non finisce mai, quindi mi piaceva questa sorta di gioco di specchi, insomma, no? In un anno che viene, teoricamente può essere ripetuto all'infinito, esce un film che ti racconta di un giorno ripetuto all'infinito, no? Assolutamente sì. Ascolta, ma in fin dei conti, no, tutti questi racconti di cui parli hanno a che fare, no, con il fantastico, lo dicevamo all'inizio, ma anche in fin dei conti con una certa distopia, no, distopia del futuro. Ecco, tu anche studi questi argomenti dal punto di vista come docente, no, e ricercatore di letteratura. Com'è cambiata la visione della distopia e, insomma, anche di conseguenza la visione del futuro rispetto a 30, 50 o 70 anni fa? Ecco, è un futuro molto più oscuro, no? E le distopie sono sempre più presenti anche nei prodotti di cultura di massa, o sbaglio? Sì, assolutamente, e anzi direi quasi che è un futuro che non esiste in senso negativo, no? È sempre un'esasperazione magari di lati negativi o oscuri del presente. E un'altra cosa secondo me interessante è che, cioè, fino a qualche anno fa la distopia era, a parte abbastanza di nicchia, ma in generale utilizzata quasi sempre solo nella fantascienza, insomma, no? Nel cinema, nella letteratura, ma sempre all'interno di un genere, era una sorta di sottogenere, no? Quello che invece ho riscontrato negli ultimi anni è che la distopia è praticamente espansa, cioè dal punto di vista letterario un romanzo realista, un romanzo horror, comunque poi alla fine ci mettono qualcosa di distopico, a volte anche un po' forzato, artificiale, qualcosa che magari c'entra poco, che dici, ma la storia non ci ha portato qui, perché poi alla fine l'autore e l'autrice ci sono andati, perché evidentemente stiamo vivendo un presente che non ci rassicura, no? Rispetto al futuro, e quindi sta uscendo dappertutto. C'è un racconto, Quel luogo da cui tutte tornano, no? Che chiaramente è ispirato a tutt'altro, è ispirato agli attentati in Francia del 2015, ero appena arrivato in Francia all'epoca, è un po' alla reazione abbastanza allucinata di alcune persone che avevo conosciuto, allucinate e allucinante. Però quel racconto viene in realtà anche da un racconto che avevo letto della scrittrice argentina Mariana Enriquez, che raccontava di alcune ragazze che giocavano a fare una seduta spiritica, così questa seduta spiritica funzionava e riemergevano dei desaparecidos che poi riscomparivano. E era interessante perché queste figure del passato creavano una sorta di limbo fra il presente e il futuro, cioè come se poi anche loro fossero un po' destinate a riscomparire, no? Anche qui una sorta di ripetizione costante, no? Perpetua, che non finiva mai. Il senso, se lo vogliamo leggere un po' più politicamente, che sì, magari era finita la dittatura, ma non era finita altri momenti di delirio dell'Argentina. Beh, poi in effetti è arrivato Milei, questo è stato scritto ben prima, ma ecco, ha anticipato molto, è più distopico di Milei, insomma, sì, c'è qualcosa, ma non moltissimo, ecco. Ascolta, qui domando forse più al Daniele Comberiati, professore universitario ed esperto di letteratura. Cosa consiglieresti ai nostri ascoltatori di esempi appunto di letteratura distopica o che gioca con il fantastico, proprio anche immaginando dei futuri diversi o delle ucronie, immaginando dei passati diversi, che hai letto nell'ultimo periodo, sia in lingua italiana sia ovviamente in altri paesi, se questo è il caso? Guarda, in italiana c'è l'ultimo romanzo di Claudio Durastanti, Miss Italia, che tutta l'ultima parte è ambientata in una Basilicata del futuro che è diventata stazione per i viaggi sulla Luna. Quindi anche lì si gioca, no? Su una zona piuttosto depressa economicamente e socialmente dell'Italia, che poi invece diventa un'avanguardia. Quindi quello forse va letto, è interessante. Invece per quanto riguarda la letteratura così, anche in generale più internazionale, a parte Mariana Enriquez che fa letteratura horror, però sempre c'è qualcosa di molto distopico. C'è un suo racconto, quello che perdemmo nel fuoco, adesso non sono sicurissimo che la traduzione italiana sia veramente questa, ma mi aveva molto colpito perché raccontava di donne che venivano bruciate e che però poi a un certo punto, invece di nascondere, si mostravano, quindi cambiando anche in un certo senso i gusti estetici, quindi imponendosi. Lì era qualcosa di particolarmente distopico, secondo me, in maniera più sottile, no? Non per forza immaginando una città del futuro, un governo del futuro, ma andando magari su qualcosa di più marginale, che però poi tanto marginale non è, insomma. E ascolta, per chiudere, visto che rimaniamo sullo stesso argomento, passiamo dalla letteratura al cinema. Ecco, immagino che avrai incontrato, no, nei tuoi interessi anche da questo punto di vista film o serie distopiche. Insomma, anni fa si è parlato tanto di Black Mirror, no? Poi Atkinson, con anche la serie tratta dal suo libro. Penso poi a Years and Years, anche questo già prima della pandemia. Sì. Sempre sulle serie. Ma poi anche recentemente è uscito un film, no, che è ancora nelle sale, se non erro, che è Civil War, che appunto immagina questo futuro distopico degli Stati Uniti in una guerra civile assolutamente incivile. Ecco, non so se tu hai qualche altro consiglio da dare o anche a partire da questi stessi riferimenti, come la stessa Civil War. Sì, effettivamente Years and Years, ora che mi ci hai fatto pensare, era interessante perché era proprio una distopia, se vogliamo, a bassa intensità, no? Aumentare di qualche anno il nostro futuro per vedere che cosa succede. Guarda, c'è una cosa secondo me interessante di un regista italo-srilanchese che si chiama Suranga Katagumpola, che ha fatto un film che si chiama Crazy Fish Sing, l'ultimo film che ha fatto, e è interessante perché in realtà è un noir, ma è girato in una sorta di posto futuristico, cioè una città che hanno costruito in Sri Lanka, perfetta, praticamente finita, però poi nessuno ci è andato a vivere. Quindi questo luogo è vuoto. La storia poi è una storia piuttosto realista, ma è distopico, perché ci sta in realtà facendo vedere un'azione dell'essere umano totalmente allucinante, insomma, sul territorio, sull'ambiente. E quello è un film che mi ha colpito, insomma, l'ho visto recentemente e effettivamente dice molto. Nel caso italiano c'era una serie che era poi ispirata dal romanzo di Ammaniti Anna, poi la serie si chiama Anna e lui è fra i coregisti, che ha un po' anticipato la pandemia. Il romanzo è del 2015, la serie esce nel 2021, però mi ricordo io quando l'ho visto ero rimasto angosciato, perché comincia con una famiglia che sta vedendo il telegiornale mentre mangia in Sicilia e si parla di un virus che viene dal Belgio. Questa volta è una febbre che viene dal Belgio, non dalla Cina come il Covid, e non ci fanno caso, continuano a mangiare. E poi nella scena successiva ci sono le persone con la mascherina o tutte bardate, no? Tant'è che nei titoli di testa hanno dovuto scrivere che le riprese sono iniziate sei mesi prima della pandemia del Covid, perché effettivamente come spettatore fai un cortocircuito. Cioè, ti dici, ma questo mi sta raccontando qualcosa di reale o qualcosa che che in realtà è avvenuto, no, è semplicemente una distopia che poi si è avverata in, con processi molto simili. Ecco, mi auguro che alcune delle distopie di cui tu parli nei tuoi racconti non si avverino, soprattutto quella dei 65 anni. Comunque, infatti, sì, esatto. Vedremo, Daniele. Il diario delle mie spedizioni, la raccolta dei racconti, la tua ultima fatica, Daniele Comberiati, lo ricordo, è uscito all'inizio di questo 2024 per i tipi di Besamucci. Daniele, grazie davvero di averci accompagnato, alla prossima. Grazie a te, Steven, grazie a tutti. Ciao. Il lupo perde il pelo e non il vizio, anche se c'è su tutti i denti del giudizio. La fisarmonica nell'altra stanza, una sirena canta in lontananza. Scendi giù con me nel precipizio, togliti solo un altro sfizio. Vieni a prendermi che niente ci rimane, che magari poi neanche si risale. Al mondo del potere ed arroganza, io ti prometto lusso ed eleganza. Bastano un rituale ed una danza. Scorre il fiume, la gatta è nel cortile, l'odore del pane riempie l'aria. Nulla smuove, la pace sa. Senza pace, tu nido di parole delicate. Se tu non meno spazio si riduce, c'è uno strappo tu alla mano che ricuce. Senza risultare un po' invadente, senti nel petto il cuore mio come si sente. Scorre. Premier Meloni, risposte concrete per i redditi più bassi e ricorre a proiettili di gomma, tricolori simbolo di inclusività. A gennaio bonus di 100 euro per i lavoratori pronti ad entrare a Rafa. Sarà ideale per una grigliata all'aperto nei primi 4 mesi dell'anno. Anche se è stato invitato dalla Proloco, di noto per un assaggio di Tintarella, il segretario di Stato americano Blinken continua a fare la spola fra le capitali del mondo arabo. Tajani, in tempi di crisi e di guerre, una passeggiata in riva al mare è sempre più attuale. Così si rischia una escalation. una storia che ha già appassionato Dua Lipa. È quella del ministro britannico Cameron, che ha inventato l'inno alla gioia mentre stava cantando e suonando in una villa a Parigi la nona sinfonia di Beethoven, complessa battaglia legale per tentare di farsi riconoscere. Così si rischia una escalation, turisti faccia a faccia con la morte nel parcheggio di un supermercato a Bari, una palma gli cade addosso tagliata dai gabbiani per rubare loro il cibo, complice anche il granchio blu, una minaccia che sta diventando una storia un po' commedia, un po' crime. Non mi è chiaro in cosa consiste. Un pensionato di Genova ritrova un Gianfranco Fini regalatogli per il carnevale 28 anni fa, che oggi varrebbe lo 0,3%, ma è passato troppo tempo e il sogno nazionalista e conservatore è svanito. E sono tornate, le avete sentite anche le ultimissime del nostro Fausto De Salvia, che salutiamo e ringraziamo. Banzo, insomma, io partirei forse subito da Gianfranco Fini, che è tornato all'onore delle cronache. Sì, questo Gianfranco Fini risalente al 1996, sembra, perché si parla di 28 anni fa, però ha un po' perso il valore questo reperto, perché diciamo, era ancora in lire all'epoca, sai. Sì, probabilmente, ma lo 0,3% del valore iniziale, che non viene specificato, però diciamo che c'è stato un crollo verticale e comunque questo pensionato non aveva ben presente. Chissà cosa faceva nel 96 questo pensionato. Però, Steven, parliamo anche della minaccia degli animali, perché come in un film di fantascienza abbiamo i gabbiani alleati col granchio blu che cercano di travolgere dei turisti con una palma, ecco, per rubare loro il cibo. Quindi praticamente un film di serie B degli anni 50-60. Poi ti lascio l'ultima notizia, la scelta dell'ultima notizia per il commento. Fai tu, insomma, non so, tra Blinken, Meloni, forse anche Tajani, se non ricordo male, ce n'è a bizzeffe, puoi scegliere tu. Ma guarda, a me colpisce questa storia del ministro britannico Cameron che inventa l'inno alla gioia, perché, perché effettivamente, non so. Beh, lui non era un Brexiter, Non lo so, forse sì in realtà, ma era un sapore, cioè il discorso è che tutto ciò ha un fortissimo sapore di paradosso temporale, quindi se credesse o meno alla Brexit è irrilevante, perché forse c'è una linea temporale in cui era pro e una in cui era contro, quindi, però diciamo che per aver scritto lui l'inno alla gioia deve aver viaggiato abbastanza nel tempo. Sì, vabbè, ma sai, in una puntata dedicata alle distopie, dopo aver ascoltato anche insomma un po' e aver parlato con Daniele Comberiati di tutti questi racconti tra diacronia, distopia, ucronia e insomma chi ne ha di più ne metta anche insomma altre tipologie di fantastico e fantascienza, insomma ci cade a pennello questa notizia delle ultimissime. Cadeva a fagiolo, o anzi cadeva a palma, come ci insegnano questi animali pericolosissimi. Ma torniamo, quando poi mettiamo le ultimissime, il brano precedente si perde un po' nelle brume, quindi andiamo a presentarlo, Steven. Hai ragione, sì, è una news molto bella che ci arriva dall'Italia. Lui è un cantautore di Sansepolcro, Lorenzo Meazzini, in arte Muni. Il suo disco uscirà la prossima settimana, il 17 maggio, oltretutto. Lui è attivo da parecchi anni, ha suonato con un sacco di gente, da Max Casacci dei Sussonica, Mirko Mariani degli Extraliscio, che abbiamo seguito molto qui a Zibaldone. Avete sentito che i sound si muovono tra la musica 60s con un po' di psichedelia, per andare tra il cantautorato, ma anche insomma a sonorità di musica tradizionale, un po' di diverse latitudini. Questo brano si intitola Il Lupo e appunto anticipa uno dei singoli che anticipa questo Oltretutto. Sicuramente gli presteremo attenzione, Banzo, dalla prossima settimana, quando il disco sarà fuori. Sì, sicuramente questo brano mi è piaciuto. Comunque, per quanto riguarda le intenzioni di Muni, precisa che la sua volontà è un po' quella di trascendere il momento, perché anche nella breve biografia del suo profilo in Instagram leggiamo musica per raggiungere mondi altri, quindi l'ispirazione psichedelica forse si esprime in questo modo, diciamo, trascendendo proprio il presente, l'immanenza, ecco, più immediata. Ci rimangono pochi minuti, però il tempo ancora per qualche brano. Ivan Graziani, questo album Ritrovato di cui abbiamo parlato la settimana scorsa, vi proponiamo un'altra canzone, perché Ivan Graziani sempre merita. Questa si intitola L'Italianina, sentitevela qua. Cosa le daresti all'Italianina? cosa le daresti per accontentarla? Io le comprerei una camicina che dal vento possa ripararla. Vento di maestrale che soffi forte, l'estate calda bussa già alle porte, partono dal porto le barche in fila, salutando l'italianina, salutando l'italianina. E con le reti aperte in giro tondo, calandole nel mare più profondo, raccoglieranno rami per una collana da regalare all'italianina, da regalare all'italianina. Potrai girare il mondo, se vuoi in lungo e largo, però quest'Italia scorderai mai più. O mare trasparente che rifletti i suoi denti bianchi come confetti, lascia che il sorriso non diventi mai brina sulle labbra dell'Italia. Signor Forti? Signor Forti, mi è venuta in mente una battuta, sono Bruno, Bruno, mi è venuta in mente questa battuta. Allora Dio disse, è una battuta di, un po' mistica, e Dio disse Kung e Kung Fu. Vabbè, non so che cosa dire, si è anche introdotto inaspettatamente un messaggio lasciato in segreteria dal nostro Bruno, il comico serio che era sparito dalla circolazione da ormai più di un anno, era ritornato dopo Pasqua, Banzo adesso insomma ci ha mandato un altro messaggio. Comunque io lo vedo un po' alle ultime, Bruno, eh? Forse Diario delle mie sparizioni in realtà l'ha scritto lui, perché sì, sono le sue. Sì, esatto, non sappiamo che fine abbia fatto, lo sentiamo in questo messaggio con un sacco di gente attorno che apparentemente non si ferma a picchiarlo ed è abbastanza sorprendente, però non sappiamo, ti ricordi quando millantava di essere in tour? Chissà dove è adesso. Ma comunque, dirà di essere in tour anche ora, comunque boh. Ti chiedo brevemente un voto da 1 a 10 sulla battuta. Vabbè, lo scopriremo solo vivendo, volevo dire. Mi fermo qui. Comunque noi siamo arrivati alla fine dello Zibaldone, solo dirvi di Ivan Graziani, abbiamo parlato la settimana scorsa, ma questo è un disco riscoperto, una musicassetta registrata nei primi anni 90, da quanto sembra, e ritrovata nei cassetti, negli armadi di famiglia dai figli di Ivan Graziani che, insomma, l'hanno recuperata, riarrangiata e ci hanno regalato quest'ultimo disco postumo dopo quasi 30 anni dalla morte del padre, che è veramente una piccola chicca. Banzo, una cosa, noi ci salutiamo sempre, come i nostri ascoltatori sanno, con l'ultimo trago, che è diventato da un anno a questa parte Italia, De Italia Otra Parte, ossia canzoni di artisti italiani interpretate in lingua spagnola tra appunto la Spagna e l'America Latina. E che cosa mandiamo in onda quest'oggi? Spiegalo tu. Beh, innanzitutto andiamo in America Latina, c'è sempre questo questo sorteggio fra Spagna e America Latina. Oggi vince l'America Latina, più precisamente il Venezuela. Andiamo a recuperare un brano di Umberto Bindi. Tu sai che questa è un po' anche la rubrica degli anniversari. In effetti l'occasione è che Umberto Bindi, se purtroppo non ci avesse lasciato nel 2002, molto troppo presto, avrebbe compiuto 92 anni il 12 maggio. Quindi è una buona occasione per sentire uno dei suoi brani più famosi, Il Nostro Concerto, che prevedibilmente nella versione spagnola diventa Nuestro Concierto. È un brano del 1960 che fu riproposto nel 1961, quindi praticamente in diretta, da Jesús Sanoja, conosciuto come Ciuccio, spesso infatti viene chiamato Ciuccio Sanoja, in sua orchestra. Il brano è un bolero, cambia abbastanza radicalmente l'arrangiamento di Umberto Bindi. Comunque, diciamo che il brano arrivò fino in Venezuela in tempi relativamente brevi, perché insomma all'epoca le comunicazioni erano più lente, la musica aveva tempi meno brevi di adesso, però non è casuale, perché comunque questo brano di Umberto Bindi ebbe un successo strepitoso e usufruì, godette di una versione in francese e una in tedesco, sì, che invece come titolo non ha niente a che vedere, sì, perché sì, si chiama Non guardati intorno, ecco, sì, tradotto. Sì. Andiamo a sentire questo arrangiamento completamente diverso di un grande classico di Umberto Bindi. Eh sì, un arrangiamento anche che ci porta all'inizio di questo fine settimana, un venerdì pomeriggio, la sera sta arrivando. Insomma, buon venerdì sera, buon fine settimana a tutti. Banzo, grazie di essere stato con noi, e come era solito dire il primo sindaco socialista di Madrid, Enrique Tierno Galván, dopo la fine del franchismo, che alle 17.55, 56, 57 minuti, più o meno tutti i venerdì diceva: non importa cosa posso dire adesso, perché comunque c'è un universo parallelo nel quale questa puntata si chiude con una battuta molto migliore. Eh sì, sicuramente così. A venerdì prossimo, Banzo, stammi bene. Lui è Ciuccio Sanoja e questa canzone è questa meraviglia di Umberto Bindi in spagnolo, Nuestro Concierto. Tu amor es el concierto que siempre viene a mí a repetir aquel camino que me lleva a ti. Así es mi amor apasionado, con ilusión de enamorado. Como una estrella que ilumina a Dios, así mi vida la iluminas tú. Recordarás nuestro concierto y sentirás lo que yo siento. En donde estés, escucharás este concierto dedicado a ti. En donde dedicado a ti. Lo escucharás y te dirán que ni la muerte logrará